Il gastronauta di Davide Paolini. Ritorno alla terra, in viaggio nel mondo dell'agricoltura. Buona giornata a tutti cari radioascoltatori. Ebbene, oggi faremo un viaggio molto particolare, faremo un viaggio nelle fattorie didattiche. Ebbene, è un argomento molto interessante, pochi conoscono cosa sono e cosa fanno le fattorie didattiche. Noi proprio per questo vogliamo, per così dire, introdurvi su questo mondo e magari fare in maniera tale che siate talmente interessati da chiedere di andare a fare una visita nelle fattorie didattiche. Allora, per poter far questo bisogna anche spiegare che cosa sono, che cosa fanno. E allora credo che, diciamo, il nostro migliore interlocutore sia l'Animos, e abbiamo con noi Annalisa Brighi, che è appunto responsabile delle fattorie didattiche. Buongiorno Annalisa. Buongiorno a voi. Allora, ci spieghi innanzitutto cosa fa l'Animos, così abbiamo un primo punto da chiarire. Sì, certo. Alimos Alimenti alla Salute è una società cooperativa che da oltre 40 anni è al servizio di enti pubblici, associazioni, produttori, eccetera, e si occupa di educazione alimentare. E quindi educazione alimentare per i bambini, per adolescenti, ma anche per adulti. E in questo ambito, quindi, oltre a gestire programmi diretti al mondo della scuola a livello regionale, a livello comunale, ma anche a livello nazionale, entrano a far parte proprio anche le fattorie didattiche. Ecco, allora la prima, appunto, cerchiamo di chiarire cosa sono le fattorie didattiche e cosa fanno di diverso da una fattoria tradizionale. Voglio solo dare un dato, mi sembra di aver letto che sono oltre 1936 da un vostro censimento in Italia le fattorie didattiche, quindi un numero molto consistente che mi sembra stia crescendo di giorno in giorno. Esatto, è proprio così. L'accreditamento, diciamo, delle fattorie didattiche sta crescendo di giorno in giorno perché c'è un forte bisogno da parte del consumatore proprio di conoscere questo grande mondo. Le fattorie didattiche infatti sono delle aziende agricole o agrituristiche, quindi si parte da questo concetto di imprenditore agricolo, che aprono le porte e accolgono le scuole, le famiglie, gruppi di adulti per una comunicazione proprio diretta tra l'agricoltore e il cittadino, a cominciare dalle giovani generazioni. Ecco, rimanga con noi, perché introduciamo subito una fattoria didattica che lei sicuramente conosce perché siamo in Romagna, che è il Campo dei Fiori di San Vittore di Cesena, e introduciamo Orietta Boschi. Allora vogliamo chiedere a Orietta Boschi, visto che abbiamo così definito cos'è una fattoria didattica, cosa fa la fattoria didattica di Orietta Boschi. Buongiorno Orietta. Buongiorno a tutti. No, la nostra è una piccola fattoria didattica qui a Cesena, e offriamo vari percorsi per le scuole, percorsi inerenti alle nostre produzioni. Ecco, quali sono le vostre produzioni? Noi facciamo apicoltura, abbiamo degli alveari per la produzione di miele e servizio di impollinazione, produciamo frutta e colture sementiere sia in serra che in campo aperto. Poi abbiamo alcuni ettari per la produzione di grano e di fieno per i nostri animali. Ecco, se io arrivo e chiedo, magari ci saranno anche così, diciamo, delle regole, cioè uno si iscrive, chiama, com'è che funziona per poter visitare una fattoria didattica? La provincia di Forlì Cesena ogni 2-3 anni fa una guida che viene inviata alle scuole, e noi siamo aperti sia per le scuole sia per i gruppi in genere, famiglie o altre. Prenota una giornata, mezza giornata, giornata intera qui in fattoria e scegli i percorsi che vuole fare, capito? Ogni fattoria ha i percorsi relativi alle proprie produzioni. Senta, c'è affluenza, c'è richiesta di poter appunto visitare la fattoria? Sì, noi siamo molto contenti. Ad esempio il periodo nel quale c'è più richiesta è la primavera. E noi quest'anno dal 12 di marzo al 7 di giugno abbiamo avuto scuole tutti i giorni in azienda e la domenica dei gruppi di famiglie o altri gruppi in genere. Ecco. Il percorso che è più richiesto nella nostra fattoria è il percorso della fattoria neolitica. È un percorso storico nel quale i ragazzi fanno tutte le attività che facevano i primi agricoltori 10.000 anni fa, proprio nel Neolitico. Chi l'ha progettato questo percorso? Ma questo percorso l'ho ideato io, a me piace molto la storia, anche con l'aiuto, perché per diventare fattoria didattica bisogna fare dei corsi obbligatori e altri facoltativi. E c'era un docente che parlava dei percorsi didattici storici, a me è piaciuto farne uno di questo, insomma. E quindi lei l'ha realizzato appunto avendo avuto questo input. Ora poi continueremo a parlare con Annalisa Brighi di molti, appunto, della formazione e anche come si ottiene la qualifica appunto di fattoria didattica. Annalisa Brighi, voglio fare una domanda velocissima. Sì. Come è nata l'idea alla vostra associazione, alla vostra organizzazione di occuparvi di fattorie didattiche? L'idea è nata tanti anni fa ormai, nel 1996, in provincia di Forlì Cesena proprio. Beh, la mia provincia, quindi la mia provincia. In provincia di Forlì Cesena, sì. È un progetto tra l'altro mediato da quello che era già consueto nel nord Europa, quindi Olanda, Germania, dove esistevano già fattorie didattiche o city farm. Quindi abbiamo captato appunto questo forte bisogno del consumatore, visto che comunque li conoscevamo, li coccolavamo già facendo educazione alimentare, abbiamo scoperto proprio e sentito questo forte bisogno del consumatore in genere, come dicevo, dai bimbi sino agli adulti, sino agli anziani, ma anche gruppi di disabili, di ritornare a contatto col mondo rurale e di conoscere realmente il prodotto che degustavamo. Un bel cortile rotticello steccato col cancello. C'è per fin la ferrovia. Ia ia o. Allora torno ad Annalisa Brighi di Alimos, responsabile delle fattorie didattiche. Quindi diciamo che con le fattorie didattiche la fattoria cambia di molto, la vecchia fattoria diciamo va in soffitta. Sì, mi viene da dir di sì, se non altro, o comunque la fattoria didattica è un'azienda agricola reale e questo teniamo a mantenerlo, questo grande valore che ha, però è una fattoria didattica che deve fare un percorso, no? Che la prepara ad accogliere il cliente e quindi un percorso per rendere l'azienda accogliente, un percorso per rendere l'azienda attrezzata, quindi a realizzare attività con i bambini. Ecco, guardi Brighi, ora sentiamo, andiamo nelle Murge, in provincia di Taranto, andiamo da Maria Cristina Natile. Buongiorno Maria Cristina. Buongiorno. Allora, buongiorno. Ci racconta un po' la sua fattoria didattica, come accoglie chi viene a visitarla e cosa può vedere e cosa può così visitare. Certo, allora come accennava già la signora prima, anche noi abbiamo comunque un'azienda agricola reale, la nostra è un'azienda zootecnica, quindi alleviamo bovini e produciamo latte essenzialmente, quindi diciamo siamo concentrati più che altro sul discorso appunto della produzione del latte e della sua trasformazione. E noi accogliamo scuole, famiglie, insomma tutti coloro che vogliano avvicinarsi al mondo appunto delle produzioni agricole e di tutto quello insomma che consegue, tutti i valori rurali, della tradizione, tutto il discorso che c'è intorno anche alla vita insomma rurale e agricola. Da quanto tempo siete fattoria didattica? Noi è un'esperienza molto nuova, diciamo, perché è soltanto un anno che abbiamo intrapreso questo percorso, anche se invece a livello di realtà agricola, come esperienza agricola, ormai insomma risale al mio trisavolo, quindi è molto antica come tradizione, però diciamo quando ho completato io i miei studi anche riguardanti appunto la formazione, la comunicazione, ho deciso di intraprendere questa strada proprio per diciamo allargare, aprire un po' a tutti quanti coloro che sono un po' lontani da questa realtà, appunto far scoprire ai bambini questo mondo che insomma, per loro è un po' sconosciuto ormai. Ecco, vi ha portato dei vantaggi trasformarmi in fattoria didattica anche dal punto di vista economico della vendita dei vostri prodotti? Sì, dal punto di vista economico c'è un ritorno perché ovviamente si collabora con scuole, associazioni, Però diciamo che soprattutto il ritorno è essenzialmente umano, è proprio di esperienza, di arricchimento, di apertura verso insomma gli altri. È bello aprire insomma la propria azienda a gruppi di persone interessate a scoprire cosa c'è dietro anche la produzione alimentare, a riscoprire un po' i prodotti di qualità, i prodotti della nostra tradizione. Insomma, fa sempre piacere quando si vede insomma che la gente è contenta, apprezza quello che si fa, certo. Si sforza di fare, certo. Andiamo nel Basso Mantovano, ora andiamo all'agriturismo Corte Val San Martino di Moglia. Buongiorno a Claudio Meazza. Buongiorno, mezza. Scusi, mezza. E volevo chiederle, voi cosa organizzate per chi appunto viene a visitarvi dal punto di vista didattico e della visita? Beh, diciamo che le attività sono imperniate sulle produzioni agricole. Quindi, quali produzioni? Diciamo quindi gli animali sicuramente, il maiale prima di tutto, in quanto è l'animale simbolo della nostra fattoria. Dal maiale si derivano diverse attività, tra cui l'olfattiera, tra cui il riconoscimento delle varie parti del maiale, la vita del maiale, la preparazione dei cibi per i maiali partendo dai cereali della fattoria, ad esempio, e poi tutti gli altri animali, conigli, vitelli, cavalli, piccioni, polli, oche, anatre, pavoni, caprette, sono tutti animali presenti nella nostra fattoria che abbiamo un po' per passione, un po' per l'uso gastronomico, diciamo, dell'agriturismo e della famiglia, e un po' perché vediamo che il contatto dei bambini con gli animali è vincente, nel senso che i bambini hanno bisogno e si divertono e apprezzano molto durante la visita alla fattoria il contatto, la visione degli animali nei loro ambienti. Ecco, quindi nella nostra fattoria non c'è la mostra degli animali, ma ci sono gli animali nei propri ambienti, i vitelli nella stalla, i cavalli nelle... Così come avviene in questa musica, quindi... Un bel cortiglio rotticello steccato col cancello. C'è perfino la ferrovia. Ia ia o. Ecco, quindi diciamo che questa canzone della vecchia fattoria è molto, torna molto a fagiolo, diciamo, con questo. Ma andiamo anche in Sicilia, andiamo a Castelvetrano, andiamo alla fattoria didattica della Tenuta Venezia. Buongiorno a Lavinia Marrone. Buongiorno a voi. Se io arrivo nella vostra fattoria, cosa mi fa vedere? E dico, voglio fare una visita. Normalmente noi, al secondo, io faccio delle visite guidate distinte. Dipende dall'età. Dai bambini delle scuole materne hanno un percorso, quelle delle medie un altro, e gli adulti e i licei ne hanno un altro. Comunque, in linea di massima, si arriva in una zona dove ci sono esposti delle vecchie macine per la mulitura dell'olio, viene spiegato, io ho un agrumeto e un uliveto a prescindere dalla fattoria didattica e quindi dai miei animali, che a differenza delle altre che ho sentito, i miei animali non vengono né mangiati né niente del genere. Sono qua, vivono e muoiono di vecchiaia. Ho capito. Comunque sì, ci sono dei carretti siciliani, quindi vedono anche questo, il funzionamento della mulitura dell'olio come avveniva una volta e come avviene adesso, perché mi appoggio anche a un olificio moderno per fare vedere la differenza. E poi si fa un giro dell'agrumeto, si spiegano le piante di agrume, quindi la differenza che c'è tra un limone e un limoncello, che non tutti sanno. Sì, sì, sicuramente. Il liquore. Specialmente i bambini. Comune... Sì, no, si figuri. No, il limoncello è proprio una pianta distinta, perché uno fa riferimento al liquore limoncello che è fatto con i limoni e pensa che sia così, invece non è così. E le varie qualità che ci sono di agrumi, quindi anche di arance, le varie differenze, e lo stesso dei mandarini. E poi spieghiamo a quelli più grandi come si fa un innesto da una pianta madre, come si ottengono varie piante da frutto, e poi si fa durante una colazione dove si degustano delle nostre marmellate di agrumi, giustamente, o del pane proprio tipico di Castelvetrano con l'olio d'oliva che facciamo noi. si danno, si spiegano gli animali che sono in questa tenuta, quindi dagli asini ai pony, una varietà di uccelli esotici, e quindi si spiega il loro periodo di cova, di accoppiamento, insomma è una cosa poi divertente che i bambini seguono con assoluto silenzio e curiosità. Ecco. Ma diciamo che Castelvetrano, oltre che per l'olio, è famosissima anche per il pane. Pane nero, sì, che noi offriamo, con la marmellata, le dicevo, adesso nostra, e con l'olio che è la nocellara del Velice, proprio del posto. Certo che avete un paniere di prodotti davvero, davvero straordinari, olio e pane. Olio pane è una cosa che abbiamo che ancora non è conosciuta, ma speriamo di sì, è la nostra caponata. Ah bene, ma nella caponata cosa ci va? Perché le caponate sono molto diverse. Noi qui la facciamo con la cipolla, la salsa, i peperoni, che invece in altre zone non usano, le melanzane e le olive nostre. Il gastronauta. Eccoci di nuovo in questo viaggio attraverso le fattorie didattiche, che sono in realtà praticamente le nuove fattorie, sono queste fattorie rinnovate che interpretano anche uno spirito nuovo basato sulla informazione e sulla conoscenza dei prodotti e della filiera dei prodotti. Allora io voglio chiedere ancora, e devo dire che sto veramente utilizzando Annalisa Brighi, però è la nostra Virgilio su questa, voglio capire se per chi vuole così aprire le porte della propria fattoria e diventare appunto didattica può attingere a dei corsi di formazione. L'utente principale da contattare è sicuramente, come vi dicevo, l'ufficio regionale, quindi di competenza, quindi l'assessorato agricoltura o regionale o addirittura il provinciale. Da anni Alimos comunque propone dei corsi di formazione o di base o di aggiornamento e di qualificazione, e quindi comunque proprio per preparare questi imprenditori agricoli a diversificare la propria azienda. Diversificare la propria azienda e quindi per diventare agriformatori, perché proprio sono gli stessi agricoltori che accolgono, formano ed educano i propri ospiti. Quindi si può parlare di nuova fattoria? È una nuova fattoria che si adegua quindi al nuovo vivere, al nuovo consumatore sempre più attento e culturalmente sempre più pronto, e quindi diversifica la propria attività. Pensate appunto all'educazione al gusto che ci può essere nelle fattorie didattiche, alla valorizzazione della memoria contadina, quindi alla riscoperta delle tradizioni rurali, eccetera, alla valorizzazione del turismo rurale, al fatto anche di diventare fornitori magari di gruppi di acquisto solidale. Quindi veramente, veramente è una nuova realtà, ma è stata anche interpretata dalla musica questa nuova realtà. Quindi siamo passati dalle vecchie canzoni della vecchia fattoria a questa nuova fattoria, ma ora andiamo a Monbello Monferrato di Alessandria, Bragiovini da Lisa Borreani. Buongiorno Lisa. Buongiorno a lei. Allora, se io arrivo e chiedo, mi faccio fare un percorso ovviamente dal vitigno alla produzione dei vini, lei mi introduce su questa sua azienda? Certo, io sicuramente le chiedo come prima cosa quanti anni hanno i bambini che parteciperanno, perché è tutto finalizzato in base all'età dei bambini. Partiamo da dei percorsi per la scuola materna, scuola dell'infanzia, a dei percorsi per le scuole superiori, quindi scuola secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, che comprendono anche in certi periodi la vendemmia, ovviamente, perché adesso ci stiamo avvicinando in settembre, che è il mese in cui noi raccogliamo l'uva. E diciamo che per i più piccoli ci sono diverse attività che possono essere tipo la spiegazione come viene prodotto il vino, quindi il percorso dall'uva per diventare vino, i processi che si svolgono in cantina, Si possono fare le prove di imbottigliamento, la tappatura, far vedere ai bambini proprio come si imbottiglia, come viene creata poi la bottiglia con l'etichetta e la capsula e tutti gli elementi che contraddistinguono poi la bottiglia che viene. Senta Lisa, facciamo un passo indietro. Voi Prego. Usate, diciamo, interventi in agricoltura particolare, biologico, biodinamico o convenzionale? No, noi produciamo uva normalmente utilizzando dei vecchi metodi di lavorazione però applicati ai giorni nostri, quindi comunque mio marito è un ragazzo di 35 anni che da solo ha preso in mano questa cascina e ha iniziato già nel 2003, quindi sono 10 anni ad avviare la sua attività. Quindi che vino producete voi? Allora, tutti i vini, diciamo, della nostra zona del Monferrato, quindi Barbera, Grignolino, Freisa. Abbiamo anche una piccola vigna di Nebbiolo che lo commercializziamo come Monferrato Rosso, che nella nostra zona è una DOC. Poi abbiamo il Cortese, abbiamo diciamo qualche pianta di uva da tavola, che così quando si viene a vendemmiare da noi si può anche a pranzo assaporare, insomma, quelle vigne di una volta. Bene, rimanga con noi. Io voglio fare un'ultima domanda ad Annalisa Brighi, poi la lascio perché ormai l'abbiamo veramente tenuta con noi tanto tempo, portandogli via magari così spazio per il suo lavoro. Volevo chiederle qual è il futuro delle fattorie didattiche, Annalisa? Manda. È il futuro per il quale lavoriamo tutti i giorni, in stretta relazione proprio con i nostri agricoltori, i nostri imprenditori. Avete sentito che entusiasmo hanno proprio in prima persona. E questo entusiasmo è proprio ti viene e ti nasce e si coltiva proprio giorno per giorno, grazie appunto a questo contatto diretto con il cliente. Ed è, come vi dicevo prima, un cliente sempre più attento e che chiede sempre di più, chiede sempre maggiore professionalità, maggiore sicurezza, percorsi didattici adeguati, come dicevo prima, non solo ai bimbi ma anche ad adulti, pensate a tutte le degustazioni, i corsi di cucina che si possono fare nelle fattorie, appunto a tutte le settimane verdi, a questi splendidi fine settimana che si possono fare coltivando l'orto, mungendo una mucca, piuttosto che sentendo l'odore del compost, no? Che sta maturando. Certo. Ma e quindi proprio per farvi capire questo forte bisogno e questa forte crescita che c'è proprio di richiesta. Noi gestiamo un sito che quotidianamente rispondiamo proprio a queste domande, a questo interesse che c'è dal cliente, quindi io volevo dar forza non solo al cliente di non stancarsi di chiedere, ma anche a tutti quegli imprenditori che vogliono diversificare, vogliono sempre di più migliorare la propria attività, e perché a mio parere, a nostro parere, c'è veramente spazio. Ecco, volevo chiederle proprio in ultimissima battuta, voi avete creato una rete delle fattorie didattiche romagnole, ma come mai in Romagna è così sentito questo problema? In Romagna la Romagna è terra di agricoltura già appunto da tempo e ha avuto un po' questo primato fino a pochi anni fa. Quindi forse per quello e anche perché la nostra attività come Alimos è partita già, come vi dicevo, veramente almeno 20 anni fa proprio su queste tematiche, quindi essendo a contatto diretto sia con l'agricoltore che con il consumatore abbiamo proprio sentito fortemente questo bisogno. Ecco, volevo chiederle un'ultimissima cosa, ma credo che questa le faccia piacere, perché se qualcuno ha sentito appunto o sta ascoltando questa trasmissione e vuole saperne di più, si può rivolgere a voi come Alimos? Possiamo dare un sito? Sì, o assolutamente. Il sito è www.alimos.it e anche www.fattoriedidattiche.net. Bene. Prego. Niente, volevo dire appunto in questi due siti vogliono essere, almeno speriamo, esaustivi sia per il cliente che appunto proprio per l'imprenditore agricolo che decide di diversificare la propria azienda. Bene, grazie. Del suo apporto che è stato veramente molto importante. Però abbiamo detto la Romagna, ma anche la Puglia. La Puglia è una regione che presenta moltissime fattorie appunto didattiche. E allora andiamo a Carovigno, andiamo da Maria Ferrante, appunto azienda agricola che è a Carovigno in provincia di Brindisi. Buongiorno Maria Ferrante, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora io le faccio la stessa domanda che ho fatto alla sua collega Lisa Borreani. Se arrivo da lei e le chiedo cosa posso vedere, cos'è che mi fate vedere in questa fattoria didattica? Allora, se lei ci raggiunge, la prima cosa che le facciamo vedere sono i nostri 500 capi di animali. Ah! Sì, perché premetto che la nostra è un'azienda zootecnica, quindi incentrata sull'allevamento degli animali, perché poi servono per la produzione di formaggi e carni. Ecco, 500 quindi, animali, come sono? Mucche? Di tutte le specie. Diciamo che gli animali della masseria, della fattoria, ci sono tutti. Abbiamo bovini, ovini, equini, e maiali, no? E animali di bassa costa, diciamo ci sono tutti gli animali presenti nella vecchia fattoria. Sì, quindi ritornando al vecchio pezzo musicale. Sì. Prego. Quindi, allora... se voi arrivate in fattoria, così come lavoriamo con le scuole, il nostro programma è quello innanzitutto di fare la visita agli animali, quindi un percorso guidato per conoscere loro, ma soprattutto ci teniamo tanto, specialmente per i bambini, far avvicinare, quindi entrare proprio in contatto con gli animali, anche il semplice fatto di accarezzarli, dar loro da mangiare, è già un primo approccio che purtroppo tanti bambini magari non hanno, perché non ci sorprende il fatto che tanti bambini vedono gli animali per la prima volta, magari li vedono solo sfogliandoli sulle figurine, non sanno principalmente come è fatta una mucca o come è fatta una pecora. E sono tanti questi bambini che non hanno mai visto una mucca? Tanti, purtroppo sì. E quindi noi ci impegniamo appunto per far vedere qual è questa vera realtà. Cosa molto bella anche per i laboratori didattici che soprattutto volgiamo per le scuole materne, le prime classi delle scuole elementari, è proprio il laboratorio della mungitura. Quindi diciamo un'esperienza che facciamo non solo per i bambini, ma consigliamo anche per gli adulti, è quella della mungitura, proprio provare a mungere una pecora. Sono esperienze che capitano pochissime volte nella vita, quindi invitiamo tutti a provarci. Quindi saranno sorpresissimi di questa certo, iniziativa. Certo, infatti l'avvicinamento diretto, no? Ma poi anche perché capiscono propriamente che è davvero di lì, da quella mammella della pecora o della mucca che sia, che fuoriesce il latte che magari arriva sulle tavole, lo bevono la mattina o con cui si fa il formaggio, e purtroppo tanti bambini non sanno che il latte deriva proprio di là. Alcuni dicono, penso quando abbiamo le visite didattiche, alcuni bambini dicono che io il latte lo prendo nel cartone, quindi non capiscono, non riescono proprio ad arrivare alla concezione primaria che è proprio la mucca o la pecora che produce il latte. Questo credo che sia un problema molto diffuso e che sarebbe sempre più giusto che si vedesse dove nasce la materia prima. Quanti visitatori fate in genere durante un anno? Più o meno durante l'anno, calcolando che le visite guidate cominciano dal mese di aprile, quindi maggio e giugno, proprio con le scolaresche, e arrivano fino a 1500 bambini, più o meno di tutta la regione Puglia. E poi vabbè, nel periodo estivo organizziamo anche tante giornate didattiche proprio con le famiglie, quindi invitiamo le famiglie con i loro bambini ad affacciarsi alla nostra realtà. E altre attività didattiche molto belle, soprattutto per le famiglie, anche da far partecipare gli adulti, è anche la lavorazione del formaggio, perché siccome noi produciamo dei formaggi, facciamo partecipare anche loro stessi in prima persona attivamente a produrre il loro formaggio, ed è un'esperienza anche unica quella. Bene, io la ringrazio, grazie a Maria Ferrante, masseria azienda agricola di Carovigno in provincia di Brindisi, e ringrazio anche Lisa Borreani di Monbello Monferrato in provincia di Alessandria. Il gastronauta. Continuiamo questo bellissimo viaggio tra le fattorie didattiche italiane, e voglio ricordare anche che la regione Umbria, la regione Sardegna, la regione Lombardia e la regione Sicilia richiedono la certificazione. Questo secondo me è molto, ma molto importante. Ma visto che abbiamo parlato di fattorie didattiche e anche di vino, e allora c'è un bellissimo pezzo musicale da dedicare, ma non da dedicare, a uno scherzo, a queste appunto fattorie particolari che producono vino. Che pasticcio, che pasticcino, nel mangime c'è andato il vino. Ce n'è andato proprio tanto, gli animali sbagliano il canto. Ce n'è andato proprio tanto, gli animali sbagliano il canto. Insomma, speriamo che non succeda questo, ma devo dire che è molto divertente questo pezzo. Continuiamo appunto e ora torniamo in Romagna, andiamo a Faenza, provincia di Ravenna, alla fattoria didattica Apicoltura Lombardi. Ebbene, il nome stesso, apicoltura, ci dice cosa possiamo scoprire in questa fattoria didattica. Buongiorno a Mauro Lombardi. Buongiorno. Allora Lombardi, io arrivo e chiedo, che si vede qua in questa fattoria didattica e che cosa mi raccontate? Allora, nella nostra fattoria, quello che richiede la nostra regione, quindi innanzitutto la conoscenza dell'origine degli alimenti, quindi il miele, ma non solo, anche l'origine della qualità, quindi un bambino o un adulto in visita alla nostra azienda avrà una lezione sul campo e nel laboratorio di smielatura, nella mieleria, per imparare a riconoscere, leggendo le etichette, quella che è la qualità del prodotto base, il miele, ma anche la vita dell'ape, il suo ruolo nell'ambiente, l'importanza, l'ape diventa mediatrice anche di educazione ambientale, di sostenibilità, perché è un animale che è in armonia con l'ambiente, ricava energia solo da fonti rinnovabili, il sole, i fiori appunto. Lombardi, lei ha detto smielatura, io faccio il bambino che arriva e dice, mi scusi, ma cosa vuol dire smielatura, cos'è questo processo? La fattoria didattica ha un approccio laboratoriale, quindi il bambino arriva e visita il laboratorio dove avviene la smielatura, quindi osserva i favi così come arrivano dagli alveari in entrata al laboratorio, dopodiché vede tutto il processo, quindi collabora tagliando la cera, il velo di cera che ricopre il miele nei favi, e vede come il miele, così come prodotto dalle api, così come deposto nelle cellette, è già pronto per il consumo e quindi finisce nel vasetto, che spesso è proprio il vasetto che lo stesso bambino riempie e porta a casa, e in questo modo impara come la freschezza e la genuinità dipendono da un minimo di trattamenti, operazioni semplici, artigianali. Il miele è un prodotto che è tanto più buono quanto più è lasciato al naturale, non riscaldato, non miscelato, e quindi impara a definire la qualità di un alimento, il miele in questo caso. Dopo torniamo sul discorso delle api, perché mi sembra che negli ultimi tempi ci sono stati grossi problemi, e poi ne parleremo con lei. Ma io ora voglio andare in Veneto, voglio andare a Cittadella, in provincia di Padova, e voglio andare alla fattoria didattica Lago, da Maria Alessia Lago. E anche lei faccio questa domanda. Io arrivo, ho telefono e dico, io vorrei fare una visita alla sua azienda. Cosa posso vedere? Quali percorsi e quali prodotti mi posso imparare a conoscere? Buongiorno Maria Alessia Lago. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, da me i percorsi sono totalmente diversi dal signor Lombardi, però noi abbiamo fatto questa fattoria proprio per avvicinare sia i grandi che i piccini a quello che è un po' il mondo rurale, cioè quello che magari la nostra generazione era abituata a vedere a casa dei nonni o dei vicini, quella che era una tipica fattoria con gli animali della fattoria, le galline, i cavalli, gli asini, la mucca, le capre, i conigli. Quindi tutto il mondo un po' legato agli animali che una volta erano cosiddetti animali domestici, presenti un po' in tutte le famiglie italiane. Quindi animali, e poi noi siamo specializzati nell'uovo, visto che noi abbiamo gli allevamenti di galline ovaiole, quindi abbiamo fatto diversi percorsi e laboratori, tutte proprio legate all'uovo fresco. Ecco, mi dico una cosa, i bambini magari non sono sorpresi che le uova nascono dalle galline e magari lo vedono e dicono, io l'ho visto solo al supermercato. In effetti noi proprio uno dei percorsi è proprio questo, facciamo proprio vedere l'uovo da dove nasce, quindi facciamo addirittura una caccia all'uovo nel pollaio, e poi, che quindi per loro è un divertimento, nel senso che loro il contatto anche con un animale così semplice come una gallina è inconsueto. Poi seguiamo questo uovo, perché noi abbiamo anche proprio il centro di confezionamento, nel senso che noi siamo proprio allevatori. Proprio l'uovo da quando nasce, e scoprono per la prima volta che l'uovo quando nasce è caldo, che ormai anche i grandi non lo sanno più, fin che arriva dentro alla confezione che poi loro trovano al supermercato. E noi addirittura gli facciamo anche timbrare l'etichetta della confezione, cioè adesso che così loro vedono proprio che quell'uovo da dove l'hanno preso finisce dentro la confezione. Ecco allora una rivoluzione. Immagino, ma una cosa importante, quel timbro che viene messo, ma mi spiega qual è il mistero di lettura? Beh, il timbro, quello che nel senso che viene impresso, viene stampigliato nel guscio, sì, è una cosa che non è che fanno anche adesso i bambini manualmente, nel senso che loro quello che timbrano è la confezione, magari il lotto e la scadenza dell'uovo. Questo è una cosa digitale, la Lo so, però... È un codice, no, è un po' ostrogoto, devo dire. Ah, ecco, deve ammetterlo questo, perché... No, ma io sono d'accordo con lei, nel senso che capibile, anche per un profano, sono solo due sigle, quindi la IT d'Italia, o se dovessero venire da un paese straniero, quindi il simbolo di Spagna, Romania, Francia e quant'altro, e la provincia, che nel nostro caso, beh, quindi noi siamo di Cittadella, quindi sarà PD, come nelle vecchie targhe automobilistiche. Ma io, guardi, faccio un commento abbastanza brutale, mi viene da chiedere ma che senso ha, perché bisognerebbe aggiungere ad ogni uovo un manuale di lettura, quindi sarebbe veramente incredibile. Ma poi ritorneremo ancora sull'uovo. Ora andiamo alla tenuta Giarretta di Belpasso, in provincia di Catania, da Ivan Pinieri. Buongiorno Ivan. Buongiorno. Io so che la sua fattoria è veramente in un posto magnifico dal punto di vista ambientale. Sì, logisticamente siamo situati sulle sponde del fiume Simeto, che è il fiume più lungo della Sicilia, quindi quando ci contattano e ci chiedono che percorsi proponiamo, uno dei nostri percorsi è proprio quello del il percorso del fiume Simeto, quindi la riscoperta del nostro territorio. Facciamo tutta un'introduzione su quello che è l'ecosistema fluviale, la catena alimentare. Una cosa su cui puntiamo molto è la rivalutazione della famiglia, oltre che del territorio. Oggi andiamo tutti di fretta, i figli siamo abituati a lasciarli a scuola la mattina, il pomeriggio al dopo scuola, durante la settimana li posteggiamo in un baby parking o in un asilo, e c'è proprio questa perdita dei valori della famiglia. Quindi la cosa su cui puntiamo molto è coinvolgere anche i genitori oltre i bambini. E poi tante cose che magari noi pensiamo che i bambini ignorano, altre volte sono i grandi invece ad ignorarli, perché i bambini si mettono spesso con le loro domandine così innocenti in difficoltà serie. E quindi la cosa a cui teniamo molto è che i genitori siano insieme ai bambini, quindi accompagnano i piccolini a fare il giro dell'azienda, quando le condizioni climatiche lo permettono scendiamo giù fino al fiume e spieghiamo un pochettino con personale qualificato, abbiamo degli agronomi, dei naturalisti che ci coadiuvano in questo lavoro. Senta Pinieri, voi nella vostra fattoria didattica avete un mercatino biologico. Sì, noi siamo un'azienda in conversione, quindi l'anno prossimo avremo la certificazione dell'ICEA, quindi non usiamo prodotti convenzionali ma soltanto prodotti in coltura biologica, quindi cerchiamo nei limiti del possibile di usare stallatico, abbiamo gli animali, abbiamo i cavalli, e di usare solo prodotti certificati biologici. Ecco, voi spiegate ai visitatori questo processo di conversione, perché è molto interessante, da agricoltura convenzionale all'agricoltura biologica. Guardi, la cosa a cui miriamo molto è la sensibilizzazione al rispetto per la natura, sia dal punto di vista della produzione dell'energia. Noi abbiamo qui in azienda dei pannelli fotovoltaici, abbiamo un bel impianto, quindi partendo da lì introduciamo il discorso dell'inquinamento, del rispetto ambientale, delle fonti alternative, e da lì poi ci spostiamo nell'orto, dove abbiamo questo orticello con produzione biologica di orticole stagionali, e facciamo lavorare i bambini insieme ai genitori, li costringiamo a sporcarsi le mani e i vestiti in campo, a seminare, a piantare, a piantumare, a raccogliere, e quasi ogni domenica noi organizziamo un piccolo mercatino qui aziendale vendendo i prodotti orticoli appunto stagionali. Bene, io la ringrazio Pinieri, lo ripeto, tenuta Giarretta di Belpasso in provincia di Catania, ma voglio tornare un attimo prima di chiudere questo bellissimo viaggio tra le fattorie didattiche da Mauro Lombardi, perché mi preme molto parlare di api. Negli ultimi anni, Lombardi, c'è stata una moria di api. Sì, diciamo che nel 2008 si è registrata una forte moria dovuta anche alle patologie che sono presenti ormai da anni, con cui dobbiamo imparare a convivere nelle colonie delle api, ma anche a una cattiva gestione, diciamo, di quelli che sono i presidi che aiutano a combattere le patologie delle piante, e quindi sono stati individuati delle molecole che non sono tossiche per le api, ma praticamente fanno perdere loro l'orientamento e quindi collaborano appunto al collasso della colonia, quindi fortissime mortalità. Negli ultimi anni lo sforzo di tutti gli apicoltori è stato quello di incrementare la popolazione di api, che sono l'unico insetto impollinatore che possiamo, diciamo, favorire in agricoltura. E ai bambini spieghiamo anche questo. Bene. Il ruolo dell'apicoltore non è solo produrre miele, ma in prevalenza produrre frutta, verdura, latte addirittura, carne, perché le mucche, ad esempio, consumano l'erba medica. L'erba medica si ha grazie al seme. Per fare l'albero ci vuole il fiore. Certo. E serve poi anche un'ape per avere il seme dell'erba medica. Grazie Lombardi, grazie. Prego. Lombardi, grazie Alessia Lago. Bene, abbiamo chiuso, abbiamo sentito quanti viaggi potremmo fare, quante fattorie potremmo andare a visitare. E allora io con l'invito, andate, perché portate i bambini, perché sicuramente abbiamo sentito, molti pensano che il latte nasca nei supermercati, tanti altri prodotti siano già pronti e confezionati, quindi credo che questo sia un fatto importante di educazione alimentare, perché poi ognuno di noi se lo porta avanti per tutta la vita. Un caro saluto dal vostro Davide Paolini.